Pari siamo, io la lingua e gli ha il pugnale, l'uomo son io che ride, e quel che spegne. Pensiero, perché con tu